Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti, 7:36 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati, con Si può fare, stiamo insieme fino alle 10, cominciamo tra pochissimo dando un'occhiata ai giornali di oggi, una veloce rassegna stampa che ci accompagna fino al giornale radio delle 8 e poi staremo insieme di nuovo con il resto della programmazione, il resto della diretta che Si può fare fino alle 10 di questa mattina. E allora i nostri contatti, la pagina Facebook Si può fare trattino radio 24, l'account di Twitter è chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Le Maurizio. E poi naturalmente anche su WhatsApp il vostro SMS per dialogare con noi in tempo reale con me. 349-238-6666. Vai! E allora, giornali di oggi che sono nelle prime pagine occupati dal vertice Angela Merkel-Donald Trump, un vertice freddo, dicono insomma, le cronache, ma basta vedere anche la fisionomica di questo vertice, non si sono neanche stretti la mano. Poi l'abolizione dei voucher, i contestati voucher in Italia, e la questione Genova con la decisione di Beppe Grillo di azzerare le comunarie, così vengono chiamate dal Movimento 5 Stelle, che avevano decretato una vincitrice, Marika Cassimatis, e invece Grillo ha indetto nove primarie e c'è un nuovo candidato. Decisione che fa sussultare, perché insomma non c'è una spiegazione trasparente. Si dice fidatevi di me, dice Beppe Grillo. E andiamo a vedere i titoli. Allora, il Corriere della Sera, titolo principale proprio dedicato a questa notizia, 5 Stelle, diktat di Grillo, primarie azzerate a Genova, via la candidata, tolto il simbolo alla vincitrice, il leader dice fidatevi di me, contrario Di Battista, che a mezza voce, secondo alcuni retroscena, con dichiarazioni non ancora ufficiali, però prende le distanze da questa decisione, dice non ci voglio più mettere la faccia su questo tipo di decisioni che arrivano direttamente dal vertice del Movimento 5 Stelle. Sul Repubblica diventa Grillo fidatevi e cancella il risultato delle elezioni online. Sto cercando il Secolo XIX, perché il giornale di Genova è il titolo principale. Genova, il ribaltone di Grillo, esclusa la vincitrice delle primarie, ripetuto il voto per il candidato sindaco, bufera sul Movimento 5 Stelle, via Cassimatis, avanti l'allineato Pirondini, il leader che dice fidatevi di me. E questo è un po' il senso, il sunto di questa vicenda. Prima di andare a leggere, leggiamo subito qualche, perché c'è per esempio chi, credo, se lo trovo, il Corriere fa una piccola intervista, ma anche Repubblica in realtà, proprio a lei, alla candidata Cassimatis, l'esclusa, che è un'insegnante di geografia all'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli, neofita della politica, fulminata sulla via di Beppe Grillo nell'ormai lontano 2012. Che delusione, dice, credevo nella democrazia e per questo mi ero messa in gioco, evidentemente mi sbagliavo. Che cosa ha fatto di male, professoressa, domanda. Me lo chiedo anch'io, mi reputo una militante ortodossa, credo profondamente nei valori del movimento, pensavo di avere le carte in regola, ma non è così, ultimamente mi devo essere persa qualcosa. Mi accusano di aver avuto rapporti con Paolo Putti, il nostro ex candidato sindaco che di recente ha lasciato il movimento, confessa. Beh sì, certo, è stato il portavoce del Movimento 5 Stelle fino a febbraio 2017, era difficile non averci a che fare, per me e per chiunque altro, perché in effetti Grillo nella sua dichiarazione, nel suo annuncio dell'azzeramento di queste comunarie, dice fidatevi di me, so che questa signora ha più volte infranto i principi del movimento, cioè avrebbe avuto rapporti con altri traditori, ormai questa questione dei traditori è diventata una piaga all'interno del Movimento 5 Stelle. C'è anche la vicenda Pizzarotti. È stata amica anche di Pizzarotti, espulso dal Movimento 5 Stelle. Lei dice sì, mi dichiaro colpevole, l'ho incontrato, è vero, nel 2014, a una convention organizzata dal Comune di Parma su ambiente e innovazione. In rete c'è anche il video. Mi sembra che all'epoca fosse ancora dei nostri, cioè dentro il Movimento 5 Stelle, quindi era tutto legale, dice la Cassimatis. Finito l'interrogatorio, e vabbè. Poi va avanti dicendo: sono stata candidata alle europee del 2014, alle regionali del 2015, cosa è cambiato oggi? E comunque il punto sollevato dalla candidata azzerata Raggrillo è questo: con questa decisione hanno tradito il Movimento 5 Stelle e i suoi principi, a cominciare da quello fondamentale della trasparenza. Per la prima volta hanno interrotto dall'alto un processo democratico, non era mai successo prima, uno spartiacque. Questo è il punto di vista della candidata esclusa. Ma insomma, la giustificazione di Beppe Grillo, che dice fidatevi di me, se ricorda un po', cioè a tutti è capitato, no, nella vita, di sentirsi fidati di me, non ti preoccupare. Quando non hai altri argomenti da proporre, arrivi al fidati di me, no? Ma com'è finita l'ultima volta che qualcuno vi ha detto fidati di me? Ve lo chiedo, perché se volete potete scriverlo al 349-238-6666, scherzando ma non troppo. È come quando il commercialista ti dice fidati di me, poi ti arriva la multa dell'agenzia delle entrate, no? Oppure in banca, fidati di me, investi su queste cose e poi dopo perdi tutto. Fidati di me è sempre un momento un po' così, no? Un po' da brivido. Allora, 349-238-6666 se volete esercitarvi su questo. Ancora, e poi chiudiamo su questa vicenda, che è il titolo principale di alcuni giornali, ma insomma altri giornali poi dedicano meno spazio a questa vicenda interna al Movimento 5 Stelle. Di Battista attacca il capo, scrive Repubblica, non ci metto più la faccia. La prima reazione di molti parlamentari liguri e non è stata lo sconcerto. Si crea un precedente gravissimo. Come facciamo a dire che uno vale uno? Tra i più scossi c'è Alessandro Di Battista, che ne parla animatamente con più di un collega, fino a dire sono stanco di metterci la faccia. E allora il riepilogo delle vicende simili a quella di Genova lo fa appunto Repubblica. Già alle scorse amministrative il movimento aveva rinunciato a correre a due punti: Salerno, Latina, Ravenna, Rimini, Caserta, per rivalità interne. Adesso a Monza la candidata scelta per soli 20 click è stata indotta al ritiro da un'assemblea inferocita. Non correrà nemmeno come consigliere. Alla Spezia il gruppo aveva scelto un candidato, poi sconfessato dai vertici, e anche la storia è simile a quella di Genova. A Piacenza il meetup è spaccato, si rischia di non correre affatto. Ad essere messa in discussione da alcuni militanti del movimento è proprio la scelta di votare i candidati online, senza però che ci sia un lavoro profondo e pregresso di scrematura. È accaduto anche a Roma che a vincere le primarie sia stato un candidato, Virginia Raggi, poi messa in croce dai stessi esponenti del Movimento 5 Stelle, che dicono: a Torino e a Bologna per esempio non c'è stato bisogno del voto in rete, dobbiamo metterci in testa che non stiamo facendo un casting per il Grande Fratello, anche se, sottolinea questo esponente non citato ma virgolettato, con una certa autoironia a proposito del Grande Fratello, ne abbiamo qualcuno dentro. E riferimento a Rocco Casalino, uno dei portavoce del movimento, che appunto ha alle spalle un Grande Fratello. E allora 349-238-6666, l'ultima volta che vi siete fidati di qualcuno, come è andata a finire, se volete scriverci su questo. Allora, altro argomento è quello del vertice Trump-Merkel. Un vertice teso, scrive il Corriere della Sera. Trump rifiuta la stretta di mano. Trump-Merkel, duello sui migranti, la Stampa. Parla il vicepresidente europeo Timmermans, serve un patto Roma-Berlino. Questa è l'intervista della Stampa a Timmermans, ma insomma nervi tesi al summit di Washington. Il tycoon: l'immigrazione è un privilegio e non un diritto. Così anche su Repubblica, Trump-Merkel, che freddezza, lontani su migranti e commercio. Vertice Merkel-Trump, scrive il Sole 24 Ore, niente disgelo, tensioni su migranti e commercio, convergenza su difesa e ruolo NATO. Sembra che ci sia stato un avvicinamento sulla questione delle spese militari all'interno della NATO, freddezza invece sulla questione dei migranti, freddezza è un eufemismo, lontananza assoluta, ma anche sulla questione del commercio. L'interesse americano ad aumentare le tasse su, per esempio, le automobili prodotte all'estero, cominciare dal Messico, ma c'è anche la Volkswagen tedesca di mezzo. Ad Angela Merkel ovviamente questo non va, e ha minacciato di denunciare all'Organizzazione Mondiale del Commercio gli Stati Uniti in caso vengano inserite queste nuove tasse. E quindi questi erano dei punti in discussione. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra pochissimo. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta. E allora, eccoci qua, di nuovo ben ritrovati, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, ascoltatori 349-238-6666. E poi stavamo parlando del vertice Trump-Merkel. Trump-Merkel, scrive il giornale, nemici a prima vista, dazi e immigrati, è scontro totale. Poi c'è la foto dei due. Il presidente Trump dà la mano alla cancelliera tedesca Angela Merkel, scusate l'impappinamento, dopo averla prima ignorata. Già, perché questo è il linguaggio del corpo, e chissà che sia sfuggito a Donald Trump, o semplicemente, come accade a volte con le cose, istintive, o era invece un gesto premeditato, più probabile, perché non mi sembra Trump, anche se è un istintivo in molte situazioni, però non mi sembra uno sprovveduto. Infatti quello che raccontano i cronisti, per chi non avesse visto le immagini ieri sera in qualche telegiornale, è questo: non c'è una cosa che sia finita in modo armonico e caloroso, scrive Giuseppe Sarcina, corrispondente da Washington del Corriere. Angela Merkel tende la mano a Donald Trump, come si fa in queste circostanze, no? E lui goffamente la tira indietro, verso di sé, cioè, come dire, no, non te la voglio toccare. Come avrebbe detto Benigni, non lo toccherei nemmeno con la canna da pesca. Ecco, eccola, la cancelliera prova a cogliere l'occasione per un qualche gesto distensivo dopo, davanti ai fotografi dello studio Ovale, ma Trump rimane lì fermo, sembra un gattone di marmo, guarda fisso verso le telecamere, congeda frettolosamente i reporter, non concede neanche la lunga e rituale stretta di mano a beneficio dei flash a fine vertice. Poi dopo ci sarà questa stretta di mano riparativa. Il punto... Ah, ecco, sì, vabbè, del punto dazi commerciali, quelli che Trump vorrebbe imporre su una serie di prodotti di importazione che alla Merkel non vanno giù, abbiamo già detto. Alcune frasi che hanno preceduto, insomma, l'incontro tra i due, il primo incontro tra i due, sono queste, perché da un lato abbiamo la Merkel che dice «Sono dispiaciuta», ha detto a gennaio 2017, «per il bando americano ai paesi musulmani. Non è giustificabile sospettare della gente di una certa origine o religione per combattere il terrorismo». E questo è un suo punto di vista. Ci va giù pesante Trump con la Merkel quando dice: «Avevo detto che Time non mi avrebbe mai scelto, Time, il settimanale Time, come persona dell'anno, nonostante fossi il favorito, hanno scelto chi rovina la Germania». Quindi la Merkel è colei che rovina la Germania, oppure i cittadini tedeschi si stanno rivoltando, il popolo tedesco finirà per rovesciare questa donna, Angela Merkel non so cosa le passi per la testa. Cioè, insomma, le premesse non erano proprio delle migliori per questo primo incontro, ma va bene, tant'è. Allora, dunque, voucher, argomento voucher, aboliti voucher, ecco i mini jobs, scrive il Corriere per il Sole 24 Ore, dietro front sul Jobs Act per voucher e appalti. Gentiloni: era un errore dividere il paese con il referendum, ora nuove regole, ha detto Gentiloni, ci apprestiamo a regolamentare in maniera seria il lavoro occasionale. Non è la prima volta che lo sentiamo dire, tra l'altro... Forse si poteva arrivare a questa frettolosa abrogazione avendo già un mente quali sono queste regole serie per sostituire i voucher, che lo ricordiamo sono nati per pagare piccoli lavori con limiti annui per studenti, pensionati e disoccupati. Poi qualcuno ha voluto estenderle a tutta l'economia, è diventato un piccolo disastro, piccolo perché parliamo dello 0,0 qualcosa dell'occupazione italiana, disastro perché di fatto qualunque tipo di lavoro poteva essere pagato coi voucher, distorcendo completamente il significato del voucher. Ecco, quindi non, però Gentiloni non ha detto c'è questa proposta in campo che voteremo il giorno X, semplicemente abolito i voucher. Insomma, 24 ore si incarica di ricordare anche agli imprenditori quali sono le alternative oggi: lavoro intermittente, collaborazioni o lavoro a tempo determinato. Se volete trovate tutte le spiegazioni. Il Corriere invece approfondisce in questa maniera, si va verso una soluzione, sembrerebbe mini jobs alla tedesca, anche se non chiamandoli in questo modo, tantomeno adesso che la Germania li sta usando, in Germania la sinistra li sta usando come arma elettorale contro la cancelliera Merkel. In Germania i mini jobs esistono, ma l'impianto sarebbe quello: un contratto che prevede per il lavoratore la stessa percentuale di contributi previdenziali di un normale contratto e non più bassa come era per i voucher, quindi un costo più alto su queste prestazioni, però avrebbe un limite massimo di ore e di giornate. Di fatto sarebbe un'evoluzione del cosiddetto lavoro a chiamata, oggi utilizzabile in Italia per non più di 400 giorni nell'arco di 3 anni. Per le famiglie invece l'idea, forse questa è un po' più interessante, ma pensando alle complicanze italiche, il modello francese rischia di naufragare in Italia. Ma insomma, scrive il Corriere, modello francese, esiste una piattaforma telematica alla quale si possono iscrivere sia le famiglie sia le aspiranti tate e colf, badanti, e in questo modo ci sarebbe la possibilità di pagare direttamente online il servizio. E va bene, a vicenda l'Italia, altra vicenda sulle pagine dei giornali, ennesima presentazione di un piano industriale ai sindacati, ennesimo annuncio di licenziamenti, ennesimo no dei sindacati, ennesimo sciopero, tutto ennesimo, perché potrei leggervi le notizie di 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, 7 anni fa, 10 anni fa, sarebbero più o meno le stesse. Adesso, se trovo qualche approfondimento, qua sulla stampa, per esempio, questi numeri: 2037 lavoratori di terra in esubero, 400 personale navigante anche qui in esubero, riduzione del salario dal 28% per i piloti di medio raggio, 22% di riduzione dello stipendio per piloti di lungo raggio, assistenti di volo riduzione dello stipendio del 32%. Parliamo di stipendi che in alcuni casi raggiungono, come per i piloti, anche 9-10 mila euro al mese, e quindi non parliamo di stipendi da fame, però insomma una riduzione del 30% è tanta roba. L'altra questione che sottolineano i sindacati è che impiegando all'Italia 12.000 dipendenti tra Italia ed estero, non contando i naviganti già in solidarietà, cioè quelli che già lavorano a scartamento ridotto, si tratta di una riduzione del personale del 51% tra il personale di terra e del 20% per il personale operativo non di volo, cioè praticamente loro dicono i sindacati, uno smembramento quasi dell'Alitalia. Però l'Unità scrive: pagano sempre i lavoratori, ma forse non è del tutto vero, perché probabilmente anche su questi 12.500 dipendenti di Alitalia qualche taglio per tenere in piedi una compagnia che ha garantito stipendi e benefit, diciamo, non proprio allineati con la crisi italica di questi anni, forse si può fare. Resta poi capire che lavoro farà l'Italia da grande. Vi voglio salutare però con una notizia che riguarda Torino e che voglio far precedere da un alleluia. Allora, la notizia è questa: raffica di aumenti, direte voi, ma come? Sì, vabbè, l'Appendino dice i conti di Torino non stanno in ordine, aumenta una serie di tariffe, ma per la prima volta nella storia dell'Italia, credo, si parla di tariffe in base al reddito, tariffe in base al reddito, giustissimo, per le strisce blu, per esempio. Non è giusto che chi ha un reddito molto elevato paghi gli stessi 50 euro all'anno di chi è disoccupato, questo non è mai stato giusto. Ecco, da oggi a Torino questo diventerà realtà. Adesso per approfondire non c'è tempo, ma insomma noi volevamo intanto dare questa notizia. Non si può fare anche questo. Ci fermiamo, giornale radio, poi ci ritroviamo subito dopo. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Otto e venti minuti, buongiorno a tutti, da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Allora, cari ascoltatori, eccoci qua, 800 24 00 24. Carlo, Milano Monterosa. Bello, bellissimo, sole, caldino, sta arrivando la primavera, siamo molto contenti. No, adesso arriva la perturbazione, però. Ah, scusate, domenica, forse lunedì, ho sentito da qualche parte, arriva un po' di piogge. Beh, però, certo che se mi fai le domande sul meteo, però ti informi prima. Mi preparo. Perché voi non lo vedete, ma Alessio invece è qui con la lavagna, mi sta facendo vedere la perturbazione che sta colpendo l'Italia. Le linee dell'alta e della bassa pressione, non ho mai capito a cosa servono, ma sono bellissime. Rimane che oggi in Monterosa, Milano, è arrivata la primavera. Molto bene, cari ascoltatori, in anticipo. Vi aspettiamo all'800 24 00 24 per stare con noi fino alle 10. Celebreremo anche noi la giornata dell'acqua con Mario Tozzi, poi tante cose. Andremo in Germania con il nostro Andrea Bertaglio. Tra l'altro, ieri la Merkel e Trump si sono visti. Visti e non salutati, e insomma, non abbiamo ben capito. C'è stato il momento della mano. C'è stato, perché io ho detto non c'è stato. Poi gli ascoltatori, no, guardi, lei ha visto mai. C'è stato, sì, c'è stato, sì, dopo certo. Che non c'era stato. No, vabbè, non è che possono non darsi la mano, se no credo che sia una crisi diplomatica se non si danno la mano. Però se per un momento titubano, dei dubbi ci sono. Cominceremo tra poco invece ritornando a parlare, perché come un fiume carsico le mense scolastiche sono lì che scorrono, intanto escono fuori delle notizie. C'è grande attenzione su quello che si mangia i nostri bambini nelle mense scolastiche, tra poco a Firenze. Prima però il gioco di oggi, noi torniamo su una notizia che ci ha molto colpito, sì. Che ci è molto piaciuta, quella di Tramezzani, allenatore del Lugano, che insomma ha portato la squadra in fabbrica per punizione. Il sogno di tutti i tifosi quando fai la squadra, tutti in fabbrica. Vai a lavorare, no? Come si urla a San Siro. È durata poco e non è finita neanche benissimo, perché è finita con gli operai che chiedevano l'autografo ai calciatori del Lugano. Ah, pensavo gli operai che chiedessero giustamente di andare perlomeno in panchina la domenica successiva. Ma insomma, noi vi chiediamo, quando è capitato a voi le punizioni che avete subito, che magari vi hanno aiutato a crescere, o magari invece che sono state sbagliatissime. Sì. E direi che contiamo anche le punizioni che avete dato, nel caso ai vostri figli, le punizioni esemplari, figli, nipoti, non so, ci può dare una punizione anche a una moglie? Sì, certo, anzi, le mogli puniscono anche i mariti, fanno per esempio degli scioperi, di cui non parliamo però. Perché nonostante quello che dicono giustamente tutti gli esperti, insomma, ogni tanto una piccola punizione ci vuole, no? I no che aiutano a crescere, io mi ricordo dei nostri tempi, siamo io vecchi. Mi ricordo, c'era un amico di famiglia, un mio coetaneo, il cui padre, quando lui faceva qualcosa che sbagliava qualcosa, non so esattamente, io ero un bambino, quindi qualcosa che non andava nel verso giusto, dal punto di vista dell'educazione familiare, il padre cosa faceva? Andava e gli toglieva la porta della camera, gliela smontava, vedi. Gliela portava via. Quindi inchiudibile da quel punto. Cioè una cosa terribile. È il panopticon, diventa che non hai più una privacy. La privacy. Perfetto, adesso però io vedo tutto quello che fai. Questa era molto forte. Beh, però se è legato a qualcosa in linea, è giusto. Nel senso che se hai usato il motorino forse non è una gran punizione. Se hai fatto invece, che ne so, sei andato su dei siti sui quali non dovevi andare. Stiamo parlando dei giorni nostri, certo. Quindi sicuramente non ho beccato il caso del tuo amico. No, perché ai nostri tempi avevamo il telegrafo e Alessio ed io ci sentivamo via telegrafo. 800 24 00 24, punizioni eccellenti, vi aspettiamo. Sembra sono ingrassato un po'. È sempre un grande momento quando sentiamo le note, le parole del piccolo Lucio. A me mi piace la Nutella, anche sì. A me. Non è quello che si mangia però nelle mense scolastiche, almeno non dovrebbe. Allora, l'ultimo caso, l'ultima questione riguarda le scuole materne elementari fiorentine. Un gruppo di genitori protesta perché l'azienda che gestisce la ristorazione, su indicazione del comune, nel nome dell'innovazione, dei cibi sani, delle diete, dei cibi alternativi, rischia di far peggiorare il servizio mensa. Troppa zucca con la quinoa e poca pasta asciutta, che piace ai bambini. Troppo ceci e poca carne, che invece piace anche questa ai bambini. Insomma, potremmo titolare la protesta dei genitori così: cibi sani, no grazie. Oppure sì, ma con moderazione. Piano piano. E con noi una delle mamme che anima questa protesta, che è una pagina Facebook che si chiama Un menù da cambiare. Sabrina Parigi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno, allora, io ho detto così, insomma, cibi sani no grazie, però in effetti stupisce un po' il senso di questa protesta. Però ci sarà qualcosa che non va, noi vogliamo sentirlo dalle sue parole. In effetti certo, molti genitori sono preoccupati dal fatto che i bambini mangerebbero solo hamburger e patatine fritte, e invece voi siete preoccupati dalle verdure, dalla quinoa, dai cibi sani, dalle cose che fanno bene. È così? Sì, praticamente non è la questione, noi siamo preoccupati della quinoa, eccetera. Siamo preoccupati perché i nostri bambini vanno a scuola, noi sappiamo dove li mandiamo, sappiamo anche che questi bambini digiunano, perché spesso e volentieri non piace questo alimento. Il nostro problema nasce proprio dal fatto che ci sono anche tanti scarti, viene buttato via anche il 90% di cibi e questi bambini non mangiano. Escono da scuola e hanno bisogno di nutrirsi. Giustamente, finendo di mangiare all'una, quel poco che hanno mangiato devono affrontare altre 3 ore di scuola. E come mai non mangiano? Come mai non mangiano? Non mangiano perché non piace. Loro le assaggiano questi alimenti, però una volta che l'hanno assaggiato e sanno che non piace, giustamente poi la volta dopo lo mettono direttamente, perché hanno, i bambini mettono il piatto in mezzo al tavolo quando non piace il prodotto che gli viene dato. Certo, però io quello che mi chiede, nel senso che da quello che ho capito, no, voi dite c'è troppa poca carne, ci sono tantissimi tortini di spinaci, zuppe di cipolle, quinoa che non piacciono ai bambini. Però io quello che mi chiedo, un po' a tutti i bambini queste cose non piacciono, giusto? Sì, nel senso, noi siamo un gruppo di mamme, facciamo parte della commissione mensa e quasi giornalmente andiamo a vedere cosa mangiano i bambini e lo scarto, monitoriamo anche lo scarto anche tramite le fotografie che noi possiamo permetterci di fare per poter confrontare da una scuola all'altra se il problema è solo di una scuola o se è di tutte le scuole. E però purtroppo con le mamme che sono delle altre scuole abbiamo riscontrato che in questi determinati alimenti i bambini giustamente non mangiano, non piace e lo però è giustamente sul quale mi volevo soffermare, nel senso che ripeto che anch'io non volevo mangiare la verdura, ma mi obbligavano a mangiare la verdura, quindi immagino che quello che mi chiedo è, il problema è che i bambini non vogliono mangiare i fagiolini, quindi bisogna non dargli i fagiolini, bisogna dargli l'hamburger con le patatine, o bisogna trovare il modo perché mangino per i fagiolini? Noi le patatine, noi siamo per, sì, diamogli gli spinaci, diamogli il tortino, però facciamola, scindiamo le due sostanze, cioè l'uovo da una parte e lo spinacio dall'altra, perché il bambino purtroppo si sta a tutti, mangia prima con l'occhio che con la bocca. Questo è verissimo, questa è mia figlia. Quindi, Viola, 5 anni e mezzo, fa così, appunto, fa così. Però io, quindi, sì, io capisco, però devo dire Sabrina che io per quanto riguarda mia figlia invece sono contento che a scuola le tocchi di mangiare, che ne so, il risotto col pomodoro, che a casa non mangerebbe mai. Addirittura, a noi non ce l'abbiamo, perché... il risotto, noi abbiamo l'orzotto col pomodoro. Ma qualunque cosa, purché assaggi anche delle cose, io credo che sia anche una funzione assolutamente. Per me è utile che la scuola, io parlo dal mio punto di vista, che la scuola mangiare a mia figlia cose che altrimenti a casa non mangia, o perché non arrivano, o perché io magari non ho la pazienza, il tempo di stare lì a proporle i fagiolini. Perché non sai cucinare. Perché non so cucinare, perché a casa mia non siamo cuochi, né io né mia moglie. E quindi questo è come. Tu non pensi che la scuola possa avere anche questa funzione educativa? Ma che la scuola può deve anche essere. Anche ascoltare se noi genitori gli diciamo che questi bambini non mangiano. Io non ti dico che non devono assaggiare. Certo, c'è stato un cambiamento totale da un menù come era fino all'anno scorso, che era una classica dieta mediterranea dove c'era la pasta al tonno, la pasta alla matriciana, c'era le verdure, c'era la carne, c'era gli spinaci, c'era l'uovo. I bambini hanno sempre mangiato. Quest'anno il menù è stato totalmente stravolto e i bambini non mangiano. Il problema però è che anche qui un punto, Sabrina, no? Anche qui un punto. Il rischio oggi, a stare a sentire quello che dicono gli esperti, non è tanto la denutrizione dei bambini quanto semmai l'obesità, no? Cioè sappiamo che dobbiamo evitare cibi che fanno ingrassare, che fanno male. Quindi forse la prima preoccupazione dovrebbe essere quella, no? Cioè, o temete veramente che i vostri bambini in qualche modo rischino di essere denutriti? A mio avviso stanno rischiando adesso di l'obesità, perché nel momento in cui escono da scuola hanno una fame da lupi, devono mangiare, capito? Il fatto è questo, perché a scuola hanno il calo, escono, hanno fame, devono mangiare, capito? E la sera a cena si abbuffano. Oppure c'è il chioschetto dei gelati che si trova immancabilmente davanti a scuola e il bambino ti chiede il gelato. Oppure iniziano a mangiare i fagiolini se hanno fame, o sbaglio, a un certo punto... I fagiolini li mangiano, e che magari non mangiano, ti ripeto, il tortino di verdure, non te lo mangiano, capito? Cioè, bisogna trovare il modo, la strada per poter far sì che tutti i bambini mangino. Ma perché non mangiano il tortino di verdura? Perché non gli piace? Perché, te l'ho detto prima, a occhio non piace, loro non te lo mangiano, non l'assaggiano. Preferireste per esempio arrivare, come è successo in altre situazioni, al fatto di portarsi la schiscetta da casa? No, assolutamente no, anche perché la scuola è sotto organico e quindi non c'è il personale che può stare dietro a questi bambini che mangiano in un'altra stanza, capito? Certo. I bambini devono mangiare tutti insieme, perché questa è l'educazione. E questo è un valore. Ma io non ho capito come mai il tortino è brutto e la frittata è bella. La frittata, perché secondo me sono abituati anche a mangiarla a casa. Lo spinacio sono abituati a mangiarla a casa. Certo, ripeto, vedere questa mattonella verde non piace. Mi incuriosiva, perché in realtà mi sembra che siamo tutti talmente abituati a vedere programmi di cibo, tanto che bisogna chiamarlo food e non più cibo, che pensavo che invece la mattonella, uno dice, guarda, è quella che hanno fatto l'altro giorno a MasterChef. Quindi sono bambini, capito? Sono bambini. Io ti ripeto, io vado a scuola, assaggio, il mangiare è buono, però se al bambino non attira l'occhio. Ora, la zuppa di cipolla anch'io l'ho assaggiata, ti posso garantire, l'ho digerita nel pomeriggio inoltrato, perché insomma è tesa come mangiare e ha un sapore che non a tutti i bambini piace. Però... Così come la vellutata di zucca o la quinoa, c'è a chi piace dei bambini, però... A mio avviso, beati i genitori di quei bambini a cui piace la vellutata di zucca, perché quelli sono miracoli. A mia figlia non piace niente, a Viola mangia soltanto pasta in bianco e cotolette che le fa la nonna, patate fritte, ma neanche, proprio cotolette e pasta in bianco e carote qualche volta. Per quello io poi sono invece dell'idea che quando va a scuola si arrangia, quel che trova mangia, ma questo diciamo è il mio punto di vista. Però vorrei ricordare una buona pratica, ma maestro Giampiero Monaca, che è stato ospite nostro della provincia di Cuneo, loro fanno questa cosa, glielo dico Sabrina perché magari potete provare anche a scuola lì da voi a fare questa cosa, coinvolgendo le maestre, chi serve il pasto, dare la mezza porzione. Loro hanno educato i bambini a scegliere se il piatto non gli piace più di tanto, scelgono la mezza porzione, così non c'è spreco, si responsabilizzano, però quella mezza porzione poi la mangiano. Questo è quello che accade in alcune scuole, ci si sta lavorando, cioè si può fare, insomma, si può migliorare. No, perché qui da noi chi sporziona da quella dose lì. Brava, ma bisognerebbe far passare l'idea che si può sporzionare anche la mezza porzione, chiedendo al bambino. Il bambino magari vede la vellutata di zucca, fa dammene mezza porzione, però quella la mangi. Ma tanto non te la quella mangia. Mezza la mangi. Quella la deve mangiare. Lo so, non si può imporre. Le maestre sono lì che gli dicono sempre assaggiatela, ma nel momento in cui l'assaggiano e ti dice non mi piace, non ci si può fare niente, capito? Però cioè, non glielo puoi nemmeno imporre, perché no, ma vai questo... contro la sua professionalità di maestra. Certo, è la cosa che cercavo di capire, nel senso che se ho capito bene, in realtà forse più che una questione semplicemente estetica, perché a quel punto diventa difficile capire quale bambino preferisce la mattonella, quale bambino il tortino, quale bambino la frittata, però mi sembra che quello che lei sta dicendo è che fino all'altro ieri c'era un cosiddetto menù mediterraneo di ciò che i bambini sono abituati a mangiare. Improvvisamente va bene mangiare la quinoa e queste cose, però che tutti i giorni uno debba mangiare etnico, il bambino invece vuole riconoscere quello che mangia anche a casa e mangiare, diciamo, normale, se vogliamo dire. Beh, una parola, che vogliamo noi, è questo che state dicendo, perché certo, questo lo capisco meglio tutto il menù, perché il menù, io stesso non è che voglio andare a mangiare cinese tutti i giorni, uno ci va una volta, capito. Però se tutti i giorni in mensa devo mangiare cinese il problema qui è se vogliamo culturale, far capire ai bambini che forse la quinoa è, se decidiamo che la quinoa è sana, è semplicemente che deve diventare un nostro alimento. Magari, altrimenti però, se si vede che con la vellutata di zucca non va, proviamo a proporgliela in un'altra maniera, perché purtroppo, ripeto, però la vellutata di zucca fa parte della ricetta, diciamo, del menù mediterraneo, perché la vellutata di zucca non è che venga da, sì, ma non da con fuori la quinoa. Ah, è la quinoa, quindi però fa bene la quinoa, va bene, so. Sabrina, noi ti ringraziamo e invitiamo chi volesse aderire alla vostra protesta, lo dico con un filo col sorriso, ma insomma un menù da cambiare, una pagina Facebook riguarda le mense delle scuole fiorentine che sono servite dalla Cheerfood, diciamo anche questo, perché ci sono varie aziende che offrono il servizio mensa, ma poi le indicazioni, le linee guida derivano dal comune, il comune che dà le indicazioni alle aziende che poi decidono di adottare questi menù. Noi ringraziamo la mamma fiorentina. Vabbè, insomma, che dire, io ripeto, dal mio punto di vista credo che la scuola possa dare un servizio anche in questo senso, cioè un servizio di educazione alimentare. Si mangia quello che a casa, o perché non siamo tutti cuochi o perché non c'è tempo di scegliere, di proporre delle cose alternative, invece la scuola può avere questa funzione. Quindi mamme, monitorate sicuramente il cibo dei vostri bambini, se c'è, come è accaduto per esempio a Genova, un pezzo di ferro, perché è accaduto in una mensa scolastica, sì, c'è uno sciopero, adesso a marzo, il 21 marzo, quindi queste sono cose serie. Su questo massima attenzione. Sì. A Torino fanno anche una cosa bellissima, dove fanno acquistare i prodotti a Perugia, chiedo scusa, dove fanno acquistare i prodotti direttamente dal comitato dei genitori che risparmiano, esatto. Anche e con i soldi che risparmiano poi organizzano percorsi didattici. Tra l'altro, ultima notizia, secondo Food Insider, un sito che si occupa proprio di notizie riguardo all'alimentazione, la classifica delle mense scolastiche migliori di qualche giorno fa vede Cremona al primo posto, Fortunati Cremonesi, Trento, quindi Fortunati Trentini al secondo posto, Firenze 14esima su 100, non è messa malissimo. No, è messa molto bene, perché sopra il 100 in realtà si considerano dei menù ottimi. Milano è al 19esimo posto e totalizza il punteggio di 89. 800 24 00 24, a tra poco. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, due messaggi al 348-3866-666. La signora ha ragione, mio figlio non mangia nulla, esce da scuola e vuole le schiacciate. È necessario cambiare il menù della scuola. Fate voi, cari ascoltatori. Mia figlia, secondo questa logica, dovrebbe mangiare solo cotolette, quindi carne, pasta, quindi carboidrati, o barrette di cioccolato, e zero verdure. Io non sono per niente d'accordo. Preferisco che a scuola si schianti, stavo per dire, contro il piatto di verdure. È così! E infatti l'altro ascoltatore dice, porca troia, si mangia tutto e si assaggia tutto. Mamma, rompi... Però secondo me è più una via di mezzo, almeno io all'inizio anch'io dicevo, ma insomma va bene mangiare qualunque cosa, e dicevo anche alla rappresentante che abbiamo intervistato, che penso che appunto i bambini normalmente non hanno voglia di mangiare le verdure, però secondo me lei ne faceva una questione di menù riconoscibile, quindi di avere un menù che in qualche modo abbia anche degli elementi riconoscibili a quello che mangi a casa, nel senso che se hai la sensazione di mangiare etnico per 5 giorni quando sei a scuola e mangi solo cose dei quali non conosci nemmeno il nome, posso capire il tipo di protesta. Paolo da Bergamo, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno qui, grazie per la possibilità. Ma io sarò estremamente sintetico. Io ho sentito la vostra la persona che è intervenuta, appunto, rappresentante di questa mensa. No, non era la rappresentante di una mensa, era la rappresentante dei genitori. Dei genitori, sì, chiedo scusa. No, chiedo scusa. Sono sempre stato abituato a stare seduto al tavolo, a mangiare quello che mi veniva dato e a finirlo, e ad alzarmi quando mi veniva detto che potevo alzarmi. Quanti dal tavolo. Quanti anni hai, Paolo? Ne ho 38, non ne ho 80. No, però, no. Però erano forse per certi aspetti un po' altri tempi, nel senso, magari, anch'io un po' magari, un ricordo di questo tipo. Sì. Magari. No, ma ci sta. Però, sì. Però secondo me il concetto del bambino che è inutile se non gli piace e non lo mangia, mi sembra estremo dall'altra parte, cioè, mi sembra eccessivo dall'altro lato. Insomma. Ma mangiavi a scuola? Mangiavi a scuola quando avevi 6-7 anni? Anche in quel caso guai a non finire. Allora, io non penso di essere venuto né deviato né terrorista né questo non lo possiamo verificare, ma ci fidiamo. È vero, fidatevi. Però diciamo che una certa cultura all'abbattimento dello spreco mi è venuta. Sicuramente non mi sarebbe venuta, credo, se avessi percepito che basta alzare il ditino e dire non mi piace e mi cambiavano il bravo, io questo sono d'accordo con te. Poi sai, io e te non siamo degli esperti giusto di pedagogia, ma siamo stati bambini, abbiamo io dei figli e non, se fai così è finita, cioè se gli proponi un'alternativa si ritorna sempre a quelle tre cose di prima, no? Pasta e carne. Allora, che tra l'altro probabilmente anche le maestre sono tutti più contenti perché è molto più facile farli mangiare. Certo. È il tortino di spinaci il vero problema. Che lo scoglio, che, lo scoglio. Sì, è come far studiare i promessi sposi, è quello. Fabio da Salerno, ed è una sfida che bisogna assolutamente accettare questa qua. Fabio da Salerno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto saluto Gabardini, che seguo dei testi di Paolo Rossi, mi ricordo Romeo e Giulietta, bellissima, in teatro. Grazie mille, ringrazio. Poi in realtà ero per l'altro argomento, perché sull'alimentazione secondo me è troppo soggettivo, viviamo troppo di suggestioni. Quindi passi, la domanda sull'alimentazione passi e invece vai sulle punizioni. Perché io sono più terra terra, quindi vado per argomenti più frivoli. Allora, io niente, volevo solo portare l'esperienza che ho subito da mio padre, che non ha mai alzato un dito contro di me. Però? Ma in realtà nell'ordine, sì, per voti inferiori alle aspettative. Una volta mi fece... Però inferiore alle aspettative, Fabio, bisogna anche chiarire. Neanche un 7. Cioè, l'aspettativa era 8, quindi il 7... No, bravissimo, tutti 6, no, mai rimandato, mai bocciato, però l'aspettativa era tutt'altra. E io avevo la collezione di fumetti, in particolare all'epoca Tex, adesso sì, non so se si compra ancora. Certo. E praticamente mi fece qualcosa come, penso, 350 albi originali, chiaramente mi li fece tagliare con la forbice e buttare a me personalmente uno a uno tutti. No. Ma come? Cioè, l'anno successivo, sì, tagliare perché... con la forbice 350 sì. Tex. Quanto ci avete messo? Un mese a tagliarli con Bonelli, le forbici? Bonelli si sta rigirando nella tomba, secondo me. Sì. Poi un'altra questione, che io all'epoca sentivo musica che non reperivo, non abitando a Roma o Milano, ma abitando in una cittadina più piccola, io non reperivo facilmente tutti i dischi. All'epoca si viveva non di internet, ma si viveva sui cataloghi. Vabbè, di quello che si trovava poi nei negozi. No, oppure sui cataloghi, oppure... Ma ti ha fatto buttare via anche i dischi? Peggio, io sentivo più, frontiere dell'heavy metal, un poco più, cioè che non arrivava a qualsiasi cosa, ecco, da noi. Certo. Sì, però Fabio, dici cosa ti ha fatto fare quei dischi, cioè, che è più interessante di quello che ascoltavi. Sì, uno a testa li rompevamo col ginocchio, sul ginocchio, tutti gli LP. Uno tu e uno tuo padre. Uno io, uno lui, mi costrinse a Senti, fare questa tortura. Perdonami Fabio, posso dire, adesso dirò una cosa terribile, ma hai iniziato dicendo mio padre non mi ha mai nemmeno sfiorato con un dito, io avrei preferito dei ceffoni, un paio di schiaffi perché se mi fai tagliare una collezione di 350 tex, io sono un uomo morto per tutta la vita. A questo punto Fabio ci devi dire com'è andata a finire, cioè tu adesso... come stai? Come stai? Hai sofferto per questa cosa? Sì, avrei sofferto. Allora, io ho sofferto, sono sopravvissuto, ritengo anche questione di poi che la cosa è comunque eccessiva, perché io con molto meno avrei comunque capito. In realtà quello che mi è rimasto, ma voleva, cioè, voleva, bastava anche molto meno. Tu non hai cominciato a drogarti poi, no? Fabio. No. Vabbè, questo è già buono, è già buono. Tuo padre non è riuscito quantomeno a rovinarti del tutto con queste punizioni assurde. E tra l'altro adesso avrebbe in mano una collezione di text che probabilmente varrebbe 100.000 euro, quindi è straordinario. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Mi ha detto mio cugino che una volta si è schiantato con la moto. Mi ha detto mio cugino che poi si è tolto il casco, si è aperta la testa. Sarebbe divertente ascoltare tutte le cose che mi ha detto mio cugino nella versione di Elio e le storie tese. Ma salutiamo dalla Deutschland più profonda Andrea Bertaglio. Ciao Andrea. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. Il tema è le bufale, me l'ha detto mio cugino, la classica bufala. Perché la Germania annuncia multe fino a 50 milioni di euro ai social network che non cancellano le bufale. Bufale. Andrea, è una cosa seria o è una bufala anche questa? Scusa, probabile che sia, sì, che sia una cosa seria più della canzone profetica di Elio, perché questa volta è il ministro della giustizia che ha fatto una nuova proposta di legge per dare sanzioni anche pesanti ai social network che non rimuovono contenuti illegali, diffamazioni, fake news. Che ce ne sono tante, e non solo sui social network, ce ne sono tante, ma lì sicuramente ci sono. 50 milioni di euro sono una bella cifra. Social network, Facebook e Twitter, perché non credo che ci siano altri social network che possono... Beh, YouTube, Snapchat, Instagram... Snapchat. Sono tanti, e sono purtroppo, verrebbe da dire a questo punto, io lo dico perché lavoro, gran parte del mio tempo di lavoro lo spendo sui social network, appunto... sono la prima fonte di informazione ormai quasi di tutti, quindi sono Facebook e Twitter sono ovviamente i più diffusi, i più usati, però appunto la galassia Google, che però è stata presa dal ministro Maas, appunto quello che ha fatto la proposta di legge, come esempio positivo, perché hanno dimostrato che rimuovono fino al 90% di contenuti illegali, mentre Twitter e Facebook o non rispondono alle segnalazioni, oppure Twitter addirittura è stato dimostrato rimuova solo l'1% dei contenuti illegali. Infatti fatevi un giro su Twitter, trovate davvero di tutto, sembra quasi senza filtri. Una delle ultime bufale che è girata, mi hanno detto, non l'ho vista, c'era la foto di Mario Vanni, compagno di merende di Pacciani, condannato per diversi reati, poi morto. La bufala era, quest'uomo è stato condannato per aver sparato a un rumeno che gli era entrato in casa, non c'entrava assolutamente nulla, 200.000 condivisioni. Però queste notizie, però queste sono o quasi... le sai e ci ridi, oppure però se non le sai ci caschi inevitabilmente, o no? Non è che ci caschi e basta, poi formi le tue opinioni e le tue scelte di voto su queste bufole, appunto, e questo è proprio il proposito evidentemente del governo tedesco, che a settembre ci saranno le elezioni in Germania, no? Quindi c'è anche un po' di strategia, visto, forse. Sì, a quanto pare i social network hanno influito così pesantemente sulle elezioni. Non vogliono finire come Brexit. Trump. Molto probabile che sia questo. Sì, io devo dire che all'inizio mi sono molto preoccupato, perché il rischio è che a volte su combufale si intendono anche censurare ciò che sono magari invece degli scherzi, delle battute, dell'ironia. Però va detto, come tu giustamente hai sottolineato, che si parla solamente dei contenuti illegali, cioè soltanto i contenuti che configurano un reato penale sono soggetti all'obbligo di rimozione. Quindi mi sembra che anche in questo i tedeschi sono molto precisi. Sì, appunto, hanno specificato subito questa cosa, perché ovviamente non è che uno può censurare quello che non gli va bene. Facciamo attenzione però che in realtà anche adesso la censura su Facebook lavora in maniera un po' ambigua, cioè c'è gente probabilmente che che fa da moderatore i contenuti di Facebook italiano, che sembra a volte non abbia niente a che fare col contesto culturale o linguistico italiano. Cioè, dobbiamo però chiudere, contenuti... dobbiamo però chiudere. Andrea Bertaglio, ti ringraziamo come sempre, un grande abbraccio dalla Germania, da Milano. Ci risentiamo dopo il GR 800 24 00 24. A tra poco. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Mi ha detto, tieni la testa a posto, datti una regolata e guarda bene dentro te stesso. Non giudicare gli altri e cerca invece di capire. Butta via lo specchio che c'è il mondo da guardare. Dovrei essere come l'acqua che si lascia andare, che scivola su tutto, che si fa assorbire, che supera ogni ostacolo finché non raggiunge il mare. E lì si ferma a meditare, per scegliere se essere ghiaccio o vapore, se fermarsi o se ricominciare. Salve, questa è l'Italia, con i suoi 8.000 km di coste e una meravigliosa trama di sorgenti, fiumi e laghi. È la nostra risorsa vitale. Per questo il 22 marzo, giornata mondiale dell'acqua, organizziamo la conferenza nazionale delle acque per sapere quanta ne abbiamo, quanta ne consumiamo, quanta ne avremo e come tutelarla dall'inquinamento e dal rischio clima. Acque d'Italia, il nostro bene comune. Seguici su italiasicura.governo.it e sui social. Se sicura l'Italia, l'Italia è più sicura. Ed eccolo che si materializza in collegamento telefonico con noi, Mario Tozzi, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Eccolo qua, la voce della giornata mondiale dell'acqua, il 22 marzo, che appunto si celebrerà tra qualche giorno. Noi anticipiamo perché non saremo in onda quel giorno e quindi... Adesso ti chiediamo di rifare lo spot in diretta, ovviamente. Ah, certo, adesso lo rifaccio subito, per carità. Allora... Beh, no, insomma, quella è una maniera... Diciamo, sì. Lo slogan serve un po' a ricordare queste giornate che altrimenti, lo sappiamo bene, risultano un po' vuote, no? Ricordiamo, ma poi in concreto non ci ricordiamo di nulla e non facciamo nulla, soprattutto non ci ricordiamo di fare nulla, di fare poco. Però già a partire da una consapevolezza dell'importanza dell'acqua, perché tutti, sì, certo, l'acqua è importante, ma perché l'acqua è veramente importante? Il Papa ha detto addirittura qualche tempo fa che secondo lui si rischia la terza guerra mondiale per l'acqua. Ah, ma le guerre per l'acqua le combattiamo da tempo immemore. Vabbè, si combattevano anche in antichità, per la verità. Ma insomma, a partire dalla guerra dei sei giorni fino alle altre, le dispute sull'acqua sono sempre più importanti, perché l'acqua sulla terra è sempre la stessa. Ma gli uomini sono sempre di più e hanno esigenze sempre maggiori. In più, nella parte meridionale del mondo, chiamiamola così, l'acqua è mal distribuita, laddove pure ce n'è poca. Quindi è evidente che la disponibilità di acqua per persona sulla terra sarebbe enorme. Parliamo di qualcosa come 6-7 mila litri al giorno disponibili in teoria per ciascun abitante, ma è facile notare che ci sono persone che campano con 15 litri d'acqua al giorno e altre che ne hanno 400, quindi certo. Evidentemente è una questione di disparità. Siccome i fiumi scorrono attraverso diverse nazioni e così pure sì. Le falde sotterranee, ecco che le dispute sono chiare. Di chi è l'acqua del Nilo? Dell'Egitto, che secondo un trattato del 1959 ne ha la maggiore disponibilità, o dell'Etiopia, dove nasce da quegli altipiani dove se non ci fossero delle condizioni particolari nemmeno si svilupperebbe il fiume. È una questione davvero delicata, ecco perché si rischia di combattere delle guerre. Come è già successo e come potrebbe succedere. L'edizione di quest'anno però, se abbiamo capito bene, è dedicata alle acque reflue, alle acque inquinate, cioè, infiltrate, per esempio da discariche, da altre infiltrazioni. È un rischio grosso questo. Sì, perché un conto è anche la disponibilità, un conto è poi di riportare quell'acqua che hai usato nel grande circolo dell'acqua, appunto, perché l'acqua è sempre la stessa, dunque la dovresti rimettere in nelle stesse condizioni in cui l'hai prelevata, cioè più pulita possibile, alla stessa temperatura. Invece è facile vedere che negli impianti industriali gliela rimettiamo dentro più calda dopo averla usata. In agricoltura spesso prende inquinanti di vario tipo e anche gli scarichi di casa, per non parlare degli altri, sono pieni di materiali che vanno depurati. Ora, questo è un processo che si fa per l'acqua potabile, ma l'acqua potabile, come sapete, è una parte, diciamo, tutto sommato piccola dell'acqua che si usa, sta intorno al 18-15-20%, insomma non di più. È l'acqua in agricoltura quella che è maggiormente utilizzata in quasi tutto il mondo, oltre il 60%, poi c'è l'uso industriale. È lì che bisogna un po' abituarsi anche a riusare acqua recuperata. Diciamo, se non la vuoi usare per bere, almeno per irrigare, puoi usare un'acqua che è recuperata, filtrata e poi rimessa nelle campagne. Ecco, questo sarebbe già un modo di utilizzare l'acqua, per non parlare del fatto che anche nei condomini ci vorrebbero forse due circuiti dell'acqua, uno per l'acqua potabile, che è quella che bevi, e un altro per l'acqua che usi, che ne so, per lo sciampone o per altri usi. Una volta c'era, no? Che la folle utilizzarle per la stessa cosa. È una Però ma arriveremo veramente a questo punto in cui anche in casa, cioè, ci sarà dell'acqua non potabile che uno usa, non so, per fare la doccia, per esempio? Ah, ma ci siamo già passati noi per quel punto. A casa di mio nonno il rubinetto dell'acqua potabile era uno solo, cioè in passato avevamo stabilito le cose in questa maniera. Ma e se poi mentre faccio la doccia mi arriva dell'acqua in bocca? Chiedo scusa la domanda stupida, però. No, però non sarebbe mai non sarebbe mai un'acqua inquinata, pericolosa, batteriologicamente non pura, sarebbe sempre pura, ma diciamo di uso, di gusto, ecco, vabbè, non ti farebbe male. Ah, ma ok, questo mi tranquillizza, Questo sarebbe un uso intelligente, però vorrebbe dire progettare i nuovi edifici o rimettere a posto i vecchi con un doppio circuito dell'acqua, cosa che un tempo c'era, appunto, come ricordavo, e che oggi non c'è più. Però è chiaro che questa è una questione cruciale, soprattutto nei paesi moderni, che sono quelli che hanno quest'uso, diciamo così, esteso. E a Roma noi abbiamo una disponibilità di acqua, che ne so, di 450 litri al giorno, a Milano 500, addirittura si parla di 1000 litri al giorno, sono cifre davvero, insomma, che vanno usate con cautela. Tu citavi anche la questione degli allevamenti, che si dice spesso si consuma molta acqua. Io però devo dire che mi immagino la scena del povero agnellino che già sta in 2 metri quadrati tutta la vita. Se poi gli togliamo anche l'abbeveraggio, mi viene tristezza. Ma gli togliamo l'acqua, gli daremo il vino. Lì più che altro il problema sarebbe del refluo, cioè soprattutto dei grandi, per quello che riguarda l'Italia, i grandi allevamenti di suini dell'Emilia Romagna, della zona nord-est, ecco, è lì che si concentra il fatto che tutto questo materiale, se non viene recuperato, finisce nelle falde e poi va a finire che le inquina addirittura prima ancora di averle usate. In quel caso non è un'acqua reflua, è un'acqua che ci arriva però già inquinata. Bisogna stare molto attenti in Italia perché abbiamo costruito veramente tanto in questo paese, dunque un po' dappertutto c'è dei punti sporchi in cui getti, e allora siccome il terreno facilmente la fa infiltrare questa acqua, ecco che bisogna che noi ci pensiamo molto bene come ci muoviamo. Ci fermiamo un attimo per il traffico e poi torniamo con Mario Tozzi, parliamo dell'acqua, di come la usiamo. Siamo ancora quelli che consumano più acque minerali forse al mondo. Ho letto in una classifica dietro al Messico le acque in bottiglia, così? Paese al mondo siamo, dopo il Messico, più di 191 litri per famiglia, diciamo, all'anno, che è una cifra. No, io non ho niente naturalmente contro l'acqua minerale, si intende, ognuno la può preferire per quello che vuole, ma certo non perché è più sicura. L'acqua in bottiglia è sicura come l'acqua dell'acquedotto, poi dopo ognuno fa le sue scelte. Ok, 800 24 00 24, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, ascoltatori carissimi, 800 24 00 24. Faccio anche un riepilogo di quello che abbiamo detto fin qua stamattina. Mense scolastiche a Firenze, troppa quinoa, poca carne, questo è il lamento delle mamme fiorentine. 800 24 00 24, se volete intervenire su questo. Oppure è credibile la Germania che annuncia una multa a 50 milioni di euro ai social network che non cancellano le bufale, le fake news? Anche qua, oppure un messaggio trasversale che la Merkel manda a Trump: non mi tassare le macchine tedesche, perché se no io ti faccio la multa a Facebook. Potrebbe essere anche questo. Poi punizioni esemplari. Mi sembra del complottismo questo. Potrebbe essere. Punizioni esemplari, un po' come Tramezzani che ha portato la squadra in fabbrica, la squadra del Lugano, a metà settimana. Noi, Mario Tozzi, tu, i tuoi genitori ti hanno dato delle punizioni esemplari, qualcosa che... oppure tu stesso... Scusa, ricordo solamente agli ascoltatori che stiamo cercando delle punizioni, esatto, esemplari. Dovete chiamarci, e l'asticella dello sconto si è alzata moltissimo perché abbiamo Fabio da Salerno, sì, che ha un padre che per punirlo gli ha fatto tagliare con le forbici 350 tex della sua collezione. A te è successo qualcosa di altrettanto traumatizzante? No, non avevo questo tipo di vessazione, non mi pare di ricordare nulla di questo visto genere. Quello di cui parliamo, a cena senza acqua, cioè a letto mamma mia. Io avrei preferito degli schiaffoni, proprio di sicuro, sì, piuttosto che non potessi. Perché poi passano, dopo gli albi di text ti rimangono, invece gli schiaffoni passano. Senti, a proposito della questione dell'acqua minerale, perché in effetti è curioso, cioè a proposito di spreco d'acqua, noi facciamo tanto per depurare l'acqua, ci arriva l'acqua a casa pulita, depurata, potabile, poi ci facciamo la doccia o la lavatrice e nel frattempo andiamo a comprare l'acqua minerale al supermercato. Beh, questa è un po' la contraddizione, soprattutto italiana, sai, dico italiana soprattutto per una ragione, perché noi in Italia abbiamo una disponibilità di acqua veramente così straordinaria, così di buona qualità, che certo non è giustificata da un punto di vista della sicurezza, ma sono stati molto bravi da un punto di vista del marketing gli operatori delle acque minerali, perché quando ci furono quei famosi inquinamenti della Trazzina in Piemonte tanti anni fa, insinuarono il dubbio che l'acqua non fosse così controllata, quella pubblica. Invece tutte e due le acque sono molto controllate, sia quella che anche perché la fa della spesa, non è che vengono dall'altra parte. Se nella classifica delle acque minerali stiamo dietro al Messico, posso capire il Messico, dove se ti bevi l'acqua del rubinetto, appunto, probabilmente, esatto, ti pigli qualcosa. Quello, ma da noi, però, come dire, quella è una questione di gusto. Però io, quando facevo la mia trasmissione televisiva ultima, ho sottoposto a un'indagine in doppio cieco, come si dice, dei cittadini qualunque che hanno bevuto 6 bottiglie di acqua senza sapere che acqua ci fosse dentro, non lo sapevamo nemmeno noi, quindi è doppio cieco in questo senso, quindi dunque nessuno sa di che cosa è. L'acqua più buona per tutti risultò effettivamente un'acqua in bottiglia che veniva da lontanissimo, dalle isole Fiji, ricca in potassio eccetera, veramente molto buona, ma costosissima naturalmente, con un impatto ambientale molto grosso. Ma la seconda fu l'acqua dell'acquedotto. Però quelli che assaggiavano l'acqua, quando assaggiavano alcune acque in bottiglia, dicevano: madonna, questa sicuramente non è buona, non sarà quella dell'acquedotto. Un po' come a dire, c'è un po' di pregiudizio, con tutto il rispetto, quando si dice il palato fine proprio, no? Appunto, con tutto rispetto, perché preferisce l'acqua in bottiglia perché è gassata, perché c'ha un suo gusto, quindi fa benissimo se vuole, però non è giustificato da questo tipo di questioni, perché sono tutte e due sicure. Poi uno può sceglierla per altri motivi, naturalmente sarebbe sempre bene prendere quell'acqua nella bottiglia riciclabile, in modo che tu la possa poi recuperare, prendere un'acqua vicina, perché sennò assistiamo al paradosso che l'acqua delle Alpi arriva in Sicilia, quella della Sicilia arriva nelle Marche, forse è bene tutto su dei camion, certo, e quindi esatto, andrebbe evitato. Si alla può faccia fare, ogni regione ha le sue sorgenti di acqua minerale. Allora, oltre che testimonia della giornata dell'acqua il 22 marzo, Mario Tozzi naturalmente è anche un paladino del territorio italiano. Abbiamo parlato tante volte con lui delle questioni del dissesto geologico. Voglio farti sentire un audio del ministro Galletti, che è stato con noi la settimana scorsa, perché lui ha annunciato degli investimenti che ci sono, a dire la verità sono abbastanza miseri, perché se confrontati con quello che potrebbe essere, perché non si fa, Mario, un piano da 10-20 miliardi di euro all'anno per recuperare, tutte le volte ce lo chiediamo, un piano di investimenti pubblici per recuperare il territorio? Perché non ci sono i soldi, forse, posso rispondere io? No, perché Galletti ha detto questo: i soldi ci sono le regioni che non li sanno spendere, sembra una specie di scarica barile, sentiamolo. Noi abbiamo un sistema per cui gli interventi sul dissesto idrogeologico spettano alle regioni. Allora, ci sono alcune regioni che per struttura, non per volontà politica, hanno difficoltà a spendere quei soldi. Per quanto riguarda le risorse, noi ne abbiamo messe parecchie, perché è la prima volta che c'è un impegno così forte. se quei soldi, se quelle risorse venissero spese in tempi brevi, mi impegno io a trovare altre risorse. Cioè, se fossi Galletti a questo punto mi alzerei dalla sedia di ministro e me ne andrei, perché direi, beh, allora fate voi le regioni. Non è un po' anche uno scaricabarile questo qua? Beh, qui devo dare ragione al ministro in questo senso, che si è visto negli ultimi anni che c'erano quasi 2 miliardi e 200 milioni di euro dedicati al dissesto idrogeologico, cioè targati, etichettati, che le amministrazioni locali non hanno speso, o hanno speso in una maniera non acconcia, diciamo così. Quindi in questo un po' di ragione ce l'ha. Questi soldi sono stati reindividuati e in via di recupero alcuni di questi, per esempio quelli che serviranno per rimettere a posto il Bisagno a Genova ed evitare che la città salti in aria ogni autunno, oppure per le famose casse di espansione dell'Arno a Firenze, facendo in modo che la prossima luce non sia così catastrofica. Dunque, questi sono già cominciati, questi cantieri, però rimane questo problema qui. Ma questo però è un problema tipico dell'Italia, che si dimentica di lavorare in prevenzione e vuole lavorare solo in emergenza. Forse il caso più eclatante non è nemmeno del dissesto, è del terremoto. I soldi del terremoto di San Giuliano di Puglia 2002, la scuola in cui morirono 27 bambini e una professoressa, sono arrivati i denari, la rimessa in sicurezza, eccetera. Alcuni di questi soldi, in particolare 8 milioni, sono finiti nell'acquisto di un catamarano per le relazioni commerciali fra il Molise e la Croazia. Aiuto. Ragazzi, se si fa così, allora qui l'amministrazione locale ha le sue colpe. Io dico, in questo caso qui, nel maneggiare gli eventi naturali a carattere catastrofico, purtroppo gli amministratori locali hanno le loro colpe, soprattutto perché non impediscono di costruire oltre su un territorio già troppo costruito. E qui... Ma il silenzio eloquente cala su tutti noi, insomma, è così. Molto lì, vero. Lì il rischio lo crei, capisci? Non è nemmeno che lo vai ad aggravare, lo fai proprio ex novo. Non ci sarebbe prima il rischio naturale, lo crei mettendo a vivere in posizioni di pericolo. Poi però vuoi l'intervento dello Stato, lo stato di calamità regionale, io quello non lo darei mai, perché ci devi lavorare durante l'anno per fare in modo che non arrivi quello stato di calamità. Però io ripeto, gli interventi da fare sono talmente tanti, gli investimenti sono talmente tanti, che io andrei altro che a Bruxelles a battere i pugni, direi: guardate, noi facciamo questi investimenti, sono 10 miliardi, 20 miliardi di euro l'anno per 10 anni, fate quello che vi pare, sforiamo, non sforiamo. Qui c'è un territorio da rimettere in sé, sarebbe in un periodo di crisi occupazionale come questo, sarebbe daresti lavoro a una generazione di ingegneri, geologi, geometri. Assolutamente, no, c'è da ricordare anche un'altra cosa, se fosse davvero fatto questo piano qui, una cosa che fu fatta anche in altri paesi, per esempio dopo la crisi del 29, Roosevelt rilancia il New Deal proprio sulle opere di risanamento idrogeologico, perché anche gli Stati Uniti avevano questo problema. Questo darebbe possibilità di lavoro opportune, però bisogna riconoscere che in Europa siamo... Non possono capire bene questo linguaggio, perché in Europa il record delle frane ce l'abbiamo noi, 500.000 su 750.000 censite, e i terremoti non ci sono negli altri paesi, dunque non capiscono perché vorremmo spendere per una cosa che a loro non suona, proprio non c'è, in Inghilterra non c'è nemmeno la parola. Bisogna per imparare il tedesco meglio, via, ho capito. Grazie Mario Tozzi, buona giornata. Grazie mille, a presto. Grazie. E ricordate il 22 marzo, la giornata dell'acqua, fate qualcosa di, non lo so, di diverso da quello che fate normalmente, non andate a comprare l'acqua minerale, bevete quella del rubinetto, non sprecatela. Ultimamente ho visto una invenzione altamente tecnologica, un elastico che si mette al rubinetto, tu alzi e automaticamente quando levi la mano si richiude, così non sprechi l'acqua. Però devi avere quei rubinetti lì, perché sì, se hai il rubinetto che si gira, l'elastico non serve a niente. Si può avere tutto nella vita. 800 24 00 24, cosa abbiamo? Ascoltatori in attesa. Paolo dalla provincia di Lecce, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Grazie, sono Paolo da Gratina, nel cuore del Salento, patria del pasticciotto. Allora, niente, patria del pasticciotto? Sì, stiamo parlando in commissione mensa proprio della città. Allora, c'è Claudia Schiattone che sta muovendo la mano con un gesto eloquente a dire: ah, no, adesso vogliamo la spiegazione del pasticciotto, visto che parliamo di cibo. Cos'è? Pasticciotto è stato creato da un pasticcere di Gratina nel fine dell'Ottocento per festeggiare l'unità d'Italia qualche anno dopo, a Scalone, che ancora c'è la tradizione. Ma si che porta c'è dentro? Perché a noi ci interessa un po' la concretezza. Io sono bravissimo a mangiare. Per spiegarlo è un po' più complicato, però è un pasta frolla con dentro una crema molto leggera e ricoperto, quindi è un dolce chiuso ripieno di questa crema. Sulla leggerezza della crema avrei qualche sospetto, ma abbiamo capito. Però deve essere poco bruciato, quindi se volete quello gratinese deve essere poco bruciato. Anche bruciato, perché giusto. Posso dire che cioè per l'unità d'Italia, insomma, l'unità d'Italia è un gran pasticciotto, direi, così per chiuderla in politica. Accidenti, ieri abbiamo festeggiato. Ieri non tutti sono ricordato, ma il 17 giusto, marzo. Giusto, no, non si è ricordato proprio nessuno, in effetti è vero. Noi solo per il 150esimo abbiamo fatto festa. Paolo, è vero, sì, cosa volevi dire? Oltre? Mi avevo chiamato perché volevo portare una piccola esperienza positiva di una gestione della commissione mensa. Fantastico. Che è un organo fondamentale. Sì? Allora io mi sono ritrovato con le bambine piccole che hanno incominciato a mangiare a mensa il primo anno, quando c'è stato il passaggio dalla gestione interna all'outsourcing, uso una parola difficile in americana, cioè alla gestione esterna, un appalto esterno. Sì, una rivolta, certo, di tutti i genitori, ma giustamente, perché era una novità, quello che non si conosce alcune volte spaventa. Allora io mi sono ritrovato in una di queste riunioni in cui cercavo, forse ero un po' più pacato, e questo è piaciuto, perché la prima cosa ho chiesto a tutti i genitori, ho detto: ma ci sono state intossicazioni? Cioè mia figlia forse qualche volta gli viene mal di pancia, ma se ce l'abbiamo in 10 bambini ci preoccupiamo. E quello mi hanno smentito, cioè nessuno ha confermato che ci fossero casi di gruppi di mal di pancia sospetti. Poi la seconda cosa, ho chiesto alle insegnanti: voi siete le nostre sentinelle, i bambini va bene, però voi dovete assaggiare, dovete mangiare, anche se non vi va, ma e loro mi hanno assicurato che lo avrebbero fatto sempre, e io ogni volta che prendevo le bambine assaggiavano e mi dicevo... Anche quelle che erano a dieta dovevano per forza assaggiare. Sono ancora vive? Sono ancora vive le insegnanti? Sì. Anzi, vabbè Paolo, quindi cioè, tu sei riuscito... Questa invece, queste sono aneddoti, però la cosa operativa è che poi abbiamo costituito la commissione mensa... Noi chiudiamo, tra 20 minuti il programma chiude. Bravissimo, perché può essere utile. La commissione mensa, là che cosa ho scoperto tra le tante cose? Che effettivamente il menù alcune volte non piaceva, anzi più delle volte all'inizio non piaceva, e quando chiedevo all'azienda esterna di cambiare, loro mi dicevano che avevano mani legate. A quel punto abbiamo creato un tavolo, che anche la norma lo prescrive, in cui si sedevano l'ASL, ma soprattutto la dietologa. A tavola, gli avete slegato le mani. Tecnico. E quindi alla dietologa dicevo: senti, devi cambiare queste cose perché non piacciono ai bambini. E l'azienda forse è più brava a fare queste altre cose. Quindi c'è stato un processo lungo, non troppo, ma comunque articolato, che ha fatto sedere al tavolo genitori, con questo tavolo. Vabbè Paolo, è giusto, si parla di cibo, si siede al tavolo. È molto giusto. Col dialogo, piano piano, ma infatti è quello che abbiamo consigliato. Sinergia. Anche alla mamma fiorentina, di lavorarci su, genitori, insegnanti, tutti insieme, bambini anche, coinvolgiamo anche i bambini, perché poi se no arrivano e... Sì, chiedi a un bambino. Facciamo sedere al tavolo anche loro. Sì, spinaci o pollo. No, infatti bisogna coinvolgerli, ma fregandoli. Franco dalla provincia di Bari, buongiorno. Anzi, Paolo, rimani in attesa perché tra poco c'è Crowd Me Up, quindi abbiamo già un giurato per la nostra giuria popolare sui progetti che cercano il finanziamento al basso. Franco da Bari. Ciao, buongiorno. Buongiorno, Franco. Ti è andato di traverso un pasticciotto. No, noi abbiamo le mandorle Filippo Cea, famose in tutto il mondo. Certo. No, perché giustamente da Lecce a Bari cambia la geografia alimentare. Avete le mandorle? La mandorla Filippo Cea è una varietà bellissima, buonissima da mangiare, famosa in tutto il mondo. Che c'è solo a Bari? A Toritto, è nata a Toritto precisamente, a provincia di Bari. Sì. Allora, tornando alle pulizie, nel ricordarmi di quello che mi faceva mia madre più di 50 anni fa, rido ancora. Allora, per non farmi giocare a pallone, mi nascondeva le scarpe. E tu giocavi scalzo? Sì, con gli altri bambini vicino al largo della cattedrale. Poi facevamo la colletta fra bambini e compravamo il pallone. Certo. Prendevo il pallone con le forbici, me li tagliava. Ma quando risate mi sto facendo grazie perché, a voi. Perché ti stai facendo? E bucava il pallone, cioè proprio la più classica, te lo buco quel pallone. Te lo buco. Sì, il famoso Superflex, il pallone certo. Con le foto dei giocatori attaccate sopra. Io sto parlando. Cioè, quel che ho capito, Franco, voi riuscivate sempre in qualche modo ad aggirare la punizione, cioè in qualche modo, o no? Ma guarda, per quello ridi. Vi ringrazio molto, quante risate mi sto facendo con me stesso ricordando questa aneddoto di più di 50 anni fa. Sta facendo ridere anche noi, sì. Comunque e siamo molto contenti. Questo è il segno questo è il segno tangibile, Franco, che le punizioni non quelle fanno tirate bene sulla traversa, ma fanno bene, possono far bene, perché altrimenti lei non starebbe qua a ricordarselo sorridendo, Grazie mille, comunque anche lei resta con noi come giurato, così continuiamo anche a ridere. Tra poco, Crowd Me Up. Si può fare, si può fare, si si può fare. Cronache da un paese migliore. Già, sembrava la fine del mondo, ma solo qua. E non c'è niente che non va. Non c'è niente da cambiare. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va. Al diavolo non si vende, si regala. Con l'anima che si pente, metà e metà. Con l'arrivo sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole. Io sono ancora qua. Questa è Si può fare, come tutti i sabati e le domeniche mattina, Radio 24, e questa che abbiamo appena ascoltato è Già, di Vasco Rossi, che è una canzone suggerita da Barbara sulla nostra pagina Facebook, perché per lei significa che nonostante tutto e tutte le difficoltà abbiamo mille risorse per noi impensabili. Già, come voi sapete, noi siamo sempre in cerca di dei Si può fare in musica, quindi se siete dei musicisti, dei cantanti, dei compositori o anche semplicemente degli ascoltatori e vi imbattete in una canzone che secondo voi racchiude bene il concetto di Si può fare, vi chiediamo di segnalarcela, ovvero di mandarla alla nostra mail sipuofare@radio24.it, oppure di segnalarcela sui nostri profili social, così noi poi la mettiamo in onda su Facebook Si può fare trattino Radio 24, oppure su Twitter @sipuofare24, oppure sui nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini e c'è anche il mio @AleMaurizzi. Sta arrivando effettivamente un sacco di roba, un sacco di musica. Dovremmo fare prima o poi specie di Correida radiofoni. Come si chiama adesso il programma nuovo che è l'erede della corrida? Ce l'avrà un nome? Italia's Got Talent, giustamente, lo guardo anche, ma adesso non mi sovveniva. Ecco, dovremmo organizzare una specie di Italia's Got Music per quelli che ci mandano le canzoni, le proprie, quelle autoprodotte. Ce ne sono tante, divertenti, alcune un po' imbarazzanti. Ma la settimana scorsa abbiamo messo il vincitore del Festival di San Nolo. Allora, adesso dopo Paolo e Franco conosciamo anche Mirko da Prato, un altro ascoltatore che tra poco sarà anche nostro giurato per Crowd Me Up. Mirko, buongiorno. Buongiorno carissimi, grazie per avermi richiamato. Vai, qual è il tuo intervento? Io non sono un cantante né un musicista, faccio teatro. Va bene. Scusa? Va bene uguale, non è un problema. Anzi, meglio. Sì, no, scherzo. No, perché per l'appunto se sentite un po' di fiatone è solo perché sto allestendo tra mezz'ora un laboratorio, quindi... sono qui con un po' di fiatone. Buon allestimento. Grazie. Volevo solo contribuire con la mia esperienza riguardo all'acqua. Io ho vissuto a Catania per alcuni anni, la città dei miei genitori. Avevamo dei grossi problemi con l'acqua e ho imparato a risparmiarla. Poi, venendo a vivere in Toscana, dove ce ne sono un po' meno di problemi con l'acqua, mi sono portato dietro questa esperienza. Allora, a casa mia io faccio una cosa, anche i miei amici un po' mi prendono in giro, però io metto una vaschetta nel lavandino dove ci si lava la faccia, le mani, anche dove sciacquo i piatti, e poi metto tutto in un secchio e lo riutilizzo per il water. In questo modo a casa mia si risparmia parecchia acqua tutti i giorni. Ogni tirata di water la risparmi. Bravissimo. E oltretutto questa cosa l'ho applicata a un laboratorio che ho fatto alcuni anni fa, intitolato Gocce di Vita, dove ho cercato di trasmettere questa mia esperienza ai bambini, facendogli poi realizzare anche una vaschetta decorata da tenere a casa. L'unico inconveniente è che in casa tua devi districarti tra le vaschette, praticamente. Cioè, è il secchio che hai in cucina, c'hai un secchio in bagno, così? Sì, è un po', in realtà è un po', sì, un po' un ingombro. Vabbè. Però ragazzi, cioè per l'acqua si fa queste altre. Certo, bravo, giusto, bravo, giusto. Bravissimo. Vai, adesso è il momento di Crowd Me Up. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Anche questa settimana siamo andati a cercare due progetti che cercano il vostro aiuto, il nostro aiuto, il finanziamento dal basso, e li trovate sulla piattaforma di Apple, ma anche sulla pagina di Crowd Me Up e di Si può fare sul sito di Radio 24. Cominciamo con il primo progetto, che è un progetto di agricoltura solidale.

Hai carta e penna a annotare tutto. Esatto. Questa è il primo, cioè, la prima regola del campione di memoria: scriversi le cose a qualche parte. Mi sembra giusto. E se uno non conosce le tecniche, cominciamo così. Quali sono le principali tecniche, che ne so, di memorizzazione? Come si allena un campione di memoria? Allora, intanto ci sono diverse discipline. Il campionato è, come dire, un campionato su 10 discipline, tipo? Una sorta di decathlon, come memorizzare nomi e visi di persone, sì, oppure date fittizie, quindi eventi completamente. Quindi si dà un elenco e in pochi minuti si chiede di memorizzare, poi si fa il test, così? Esattamente, vengono dati dei fogli di memorizzazione, sì, e dopo dei fogli dove uno deve ricostruire le informazioni correttamente memorizzate. Ma tipo quanti nomi vengono dati da ricordare? Allora, i nomi sono oltre 300, 360. E come, cioè, nomi e cognomi ti danno 300? Nomi e cognomi, sì, internazionali, perché sennò un concorrente sarebbe avvantaggiato rispetto ad un concorrente straniero. Ma non di persone famose, cioè non di persone realmente esistenti, che uno vede Garibaldi e dice Garibaldi, no? No, assolutamente. Mario Rossi. E il campione, per esempio, su questi 360, quanti arriva a ricordarsi? Allora, in realtà sono, sì, 360, perché viene preso il record attuale mondiale è aumentato del 20%, in modo che il campione del mondo possa battere se stesso. Sì. Quindi alla scorsa edizione, un buon 300 se l'era ricordati il campione. Sì, assolutamente. 300. In quanto tempo gli date? 15 minuti. In 15 minuti una memorizzazione di, sì, 300 nomi e cognomi. Se ho letto bene, stiamo parlando con Matteo Salvo, che è uno che ha imparato, memorizzato un numero di 1000 cifre sotto i 60 cifre. Minuti, è così? È vero? 1124. Non togliermene. Ci mancherebbe. Me l'ero dimenticato. 1124, cioè un numero di 1124 cifre che tu hai studiato per meno di 60 minuti. Dopodiché, sì, a richiesta, tu hai detto queste, sì, 1124 cifre. Devi così riscrivere al campionato, devi riscrivere esattamente la stessa identica sequenza. No, però io prima di alzarmene davvero e andarmene, perché siamo oltre, cioè, voglio siamo dire. In questa tutti. È invidia, questa è invidia vera. Però è memoria fotografica, non ci sono tecniche, dai, è un dono di natura che hai. Ecco, io volevo proprio dire questo. Evitate di pensare di voi stessi, io non ce la farò mai, perché io mi sono avvicinato a queste cose perché all'università non andavo avanti. Ho capito, però 1100 cifre. No, sono tecniche, sono tecniche. La risposta è sono tecniche. Sì, è come quando uno vede un atleta che fa delle cose, che volteggia sul ghiaccio in modo incredibile, non so se mi è capitato quest'anno di mettere per la prima volta. Beh, lì c'è anche c'è anche un po' di fisico però, nel senso che, voglio dire... Cioè, ma è allenamento, è comprendere, e dopo uno riesce, certo, a fare delle cose che agli occhi di tutti sembrano incredibili. Allora, tu da ragazzino non eri uno che si ricordava i numeri di telefono, che si ricordava le date, i compleanni, niente di particolare. Rimandato sempre, e avevo dato 7 esami in 3 anni all'università. È quella frustrazione che mi ha spinto a cercare dei metodi, perché vedevo che nello sport, quando mi allenavo con un bravo preparatore che mi dava il metodo, faceva sempre una differenza però enorme. Però allora dici almeno un trucco importante, uno. Creare sempre associazioni di immagini, perché la nostra mente ragiona per immagini. Ma quindi, se uno poi si dimentica anche le immagini? No, perché l'immagine va a colpire la memoria emotiva. Ma quindi creare tipo dei percorsi, se uno deve memorizzare un mazzo di carte e i numeri diventano magari i percorsi in una strada, questo? Allora, la prima fase è trasformare ogni carta in immagine, e quindi ogni singola carta, ad esempio, per fare alcuni esempi semplici, la donna di cuore può essere la moglie, la mamma, una donna che piace, un'attrice, certo, che piace. Il re di cuori, un rubacuori per dire, il re di picche può essere il boia, il due di picche una persona che magari non ha molta predisposizione. Sì, ma io mi sono già dimenticata la prima però in questo momento. No, se io ti chiedessi la donna di cuori cosa potrebbe essere? Era la moglie o la madre, la mamma. Sappiate, vabbè, che le vostre immagini sono per voi le migliori perché toccano la vostra emotività, e quindi io posso dare delle, diciamo, degli... un indizio, ma dopo la vostra io immagine purtroppo per devo chiudere qua. Purtroppo dobbiamo chiudere. Però il campionato un'invidia è pazzesca, un'invidia pazzesca. Se volete a farlo Milano, a casa, visto che 1000 numeri sono troppi, Matteo Salvo ha memorizzato un mazzo di 52 carte in meno di 2 minuti. Potete provarlo a casa perché abbiamo tutti dei mazzi di carte. Phenomenal. Allora, diamo il premio di oggi. Un libro sarà contattato dal nostro centralino a Fabio da Salerno, il cui padre ha tagliato 350 albi di Tex come punizione esemplare. Grazie a tutti, ci risentiamo domani. Grazie Andrea Piana, Claudia Schiettone, Andrea Roccabella. Hai detto tutto. Ciao da Alessio Maurizio e ciao da Carlo Gabardini, a domani 8:30-10 si può fare, ciao domani.